Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo a occuparci di rifiuti elettronici o RAE e terre rare questa sera a Smart City. Abbiamo ricordato altre volte come i rifiuti elettronici siano vere e proprie miniere da cui sarebbe possibile recuperare metalli preziosi e terre rare, alcune delle quali ormai sono vicine all'esaurimento, mentre in altri casi si estraggono solo in una o due location nel mondo, ciò che ne rende l'approvvigionamento alquanto incerto. Tuttavia recuperare questi elementi che nei RAE risultano in qualche modo, diciamo così, mescolati fra loro in modo disordinato è un'impresa difficile, come dimostra il fatto che delle 320 tonnellate d'oro e 7200 tonnellate d'argento che sono presenti nei 50 milioni di tonnellate di materiale elettronico in disuso che produciamo ogni anno nel mondo, bene, solo il 15% viene recuperato. Questa sera allora parliamo di Remete, che è una startup la quale si è aggiudicata il premio Start Cup Piemonte e Val d'Aosta 2017 per aver messo a punto un nuovo processo che recupera metalli e terre rare dai rifiuti elettronici più efficace, quindi che recupera più materiale e anche ambientalmente sostenibile. Per parlarci, in linea con noi c'è Marco Allegretti, ricercatore del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino e cofondatore di Remete. Buonasera. Buonasera. Allora, Allegretti, come funziona questo processo? Se ci descrivi brevemente, insomma, i passaggi fondamentali. Ma la partenza è il rifiuto elettronico, quindi dal cellulare al PC al tablet, insomma tutti quanti quegli oggetti che vengono utilizzati di solito anche per un periodo di tempo piuttosto breve e poi finiscono in discarica. Si opera prima con un vaglio ed una preselezione manuale che viene già abitualmente fatta peraltro negli impianti di smaltimento, e noi ci innestiamo nella seconda parte, quindi operiamo non tanto sul metallo base, sulla plastica pigadura che vengono già separate in questo tipo di impianti, quanto sulla parte più ricca che sono le schede elettroniche. Voi partite da lì sostanzialmente. Esatto, le schede elettroniche arrivano presso di noi a seguito di questo vaglio, noi effettuiamo un'ulteriore breve selezione manuale per estrarre la parte ancora più ricca e poi trattiamo sostanzialmente questa frazione specifica. Il processo si basa di fatto su un attacco acido che viene effettuato come prima fase del processo. Ecco, prima però, se ho capito bene, triturate, no, questo rifiuto che avete selezionato in modo che ci sia la parte più ricca appunto di metalli preziosi, prima di tutto viene macinata finemente, o sbaglio? Sì, esatto, dopo aver identificato e di fatto staccato la parte più ricca, questa viene successivamente triturata presso di noi. In questo modo l'attacco chimico è più efficace, certo. Ecco, e avviene anche in tempi più rapidi. Più rapidi. Per l'attacco acido utilizziamo per lo più acido nitrico. A mezzo del quale sciogliamo tutta quanta la frazione che non ci interessa, quindi a differenza di quello che succede di solito quando si tende a recuperare per esempio rame piuttosto che altri metalli, in questo caso viene sciolto ed è un sottoprodotto del processo. Quindi l'acido nitrico scioglie praticamente tutti i metalli presenti nei rifiuti tranne pochissimi, giusto? Che sono quelli che restano. Quali sono? Tranne i preziosi, di fatto. I preziosi che sono oro, palladio, platino e rodio, che sono quelli che non vengono aggrediti dall'acido nitrico. Un discorso a parte è per l'argento, che segue un'altra via di recupero. Di fatto anche questo è un... Se ne va insieme agli altri, no? Se ne va nella prima fase, anche l'argento viene portato via. Ecco, quindi vi ritrovate da una parte un rifiuto ricco di platino, palladio, rodio e oro, e dall'altra un liquido sostanzialmente che si contiene disciolti tutti gli altri metalli. A questo punto cosa succede? A questo punto abbiamo un ulteriore passaggio utilizzando acqua regia, che è una soluzione che permette di portare in soluzione anche i metalli preziosi, che è la soluzione madre che via via si arricchisce sempre di più di metalli preziosi. Una volta che la soluzione madre è sufficientemente ricca, cioè che ha acquisito una quantità sufficiente di preziosi, sia l'ultima fase di fatto del processo, che è quella in cui si precipitano i preziosi dalla soluzione, certo, madre, e poi si affinano ulteriormente a mezzo di passaggi in celle elettrolitiche. Insomma, così avete recuperato questi quattro metalli che sono quelli col valore, diciamo, in rapporto al peso più elevato. Però quel liquido che avete prodotto nella prima fase, quando avete lavato via, diciamo, tutti gli altri metalli, anche quello non è che lo lasciate lì. Che cosa fate a questo punto? Beh, questa è anche una delle fasi più qualificanti, in quanto la soluzione esausta, che è questo liquido che si ottiene nella prima fase, viene interamente recuperato, nel senso che si precipitano i metalli che sono stati disciolti all'interno, anche se non sono preziosi, non sono di grande valore, però ce ne sono anche alcuni che comunque possono essere commercializzati a un valore di mercato, come il rame, certo, piuttosto, certo, che lo stagno, piuttosto che il piombo. Una volta che vengono separati questi metalli pesanti, che poi vengono avviati sulla filiera tradizionale del recupero, la soluzione viene interamente recuperata e riciclata e quindi non si hanno di fatto emissioni di inquinanti, perché il processo è completamente a ciclo chiuso. Ed è questo anche l'aspetto più qualificante, no, del vostro lavoro? Questo è senz'altro l'aspetto più importante, perché questo tipo di attività di solito viene fatto con emissioni importanti, sia in acque superficiali, ad esempio attraverso smaltimenti più o meno efficaci di queste soluzioni esauste, sia in atmosfera, in quanto nella prima fase del processo, a seguito dell'attacco con acido nitrico, si libera un composto chimico, in forma gassosa peraltro, che si chiama ipoazotide, che è estremamente tossico ed inquinante. L'aspetto più qualificante e più importante è che riusciamo a recuperare integralmente l'ipoazotide, perché la ricicliamo completamente ritrasformandola in acido nitrico, quindi facendo la risintesi completa dell'acido nitrico. Quindi non si hanno emissioni in questo caso in atmosfera. Quindi nel primo caso controlliamo completamente le emissioni in acque superficiali, in questo secondo caso non abbiamo nemmeno emissioni in atmosfera, quindi il processo è completamente a ciclo chiuso nel pieno rispetto per l'ambiente. A questo punto quali saranno i prossimi sviluppi tecnologici ai quali state lavorando? Beh, innanzitutto passare da un processo che è di natura sperimentale oggi ad un processo che sia veramente industriale, quindi passare dalla fase attuale, che è più come dire artigianale, a una fase che sia veramente industriale attraverso un processo che sia completamente automatizzato. In aggiunta, l'obiettivo finale è quello di recuperare davvero tutto, quindi effettuare il recupero completo anche ad esempio dei sottoprodotti di cui dicevamo prima, quali i metalli che hanno un valore inferiore. Oltre a questi ci sarà poi anche il recupero completo delle terre rare, che di nuovo ha un valore intermedio rispetto ad esempio al rame piuttosto che all'oro, però che comunque hanno un interesse commerciale. Ecco, in questo momento il vostro processo è in grado, è pensato anche per recuperare tutti questi altri materiali che mi stava citando, è un fatto di margini. Esatto. Il processo è già perfettamente in grado di effettuare il recupero di tutte quante queste frazioni, quindi di tutti questi metalli. Però è chiaro che in questo momento siamo concentrati sugli aspetti che hanno una marginalità maggiore. Il massimo del valore aggiunto. Cioè i preziosi. Esatto. Ecco, a questo punto quindi lo stadio di sviluppo dello spin-off qual è? C'è un brevetto in arrivo, giusto? Sì, abbiamo una privativa industriale che stiamo depositando in modo che copra soprattutto gli aspetti di emissioni zero, che sono quelli più qualificanti. Abbiamo già fatto un primo round di investimento a luglio, prevediamo di farne un altro prima della fine dell'anno, che ci permetterà di completare l'industrializzazione del processo. Va bene, allora grazie Marco Allegretti. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui come sempre, appuntamento a domani.